me you're ready, you get it, yeah, I love your letters, we're melodramatic, and you are my heaven, 24-7, I need your honey, I need your lemon, I don't need another reason, you're enough for me, let's make some memories. E non c'è bisogno di niente, ay, ay, ay, ay, quando la notte ti prende, ay, ay, ay, ay, tra il cielo e la savana, tutto girava, Jumbo Buona, dicevi tu, guardando me. Guardando me. Segui il fiume all'orizzonte, dove l'estate non cambia colore, dai più vicino anche il sole, sopra la linea dell'equatore, tu dimmi che vuoi restare con me se il mare è blu, voglio andarci con te e non c'è bisogno di niente. Ay, ay, ay, quando la notte ti prende, ay, ay, ay, ay, tra il cielo.